Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris. C'è una nuova classe di materiali dal nome per la verità impronunciabile Transition Metal Discalcogenides, TMD per i comuni mortali, al cui studio negli ultimi anni la ricerca ha dedicato molte energie. Scoperti già negli anni 60, all'inizio degli anni 60, non avevano ricevuto molta attenzione fino alla scoperta nel 2004 del grafene, che è stato il primo materiale bidimensionale appunto ad essere scoperto ed è costituito, lo ricordiamo, da un singolo strato di atomi di carbonio disposti a nido d'ape. E questa scoperta ha praticamente inaugurato una nuova era nelle scienze dei materiali. Ebbene, i TMD hanno una struttura per certi aspetti molto simile a quella del grafene, ma con molte differenze peculiari. L'ultima delle quali è stata scoperta da un team costituito da ricercatori di due diversi istituti del CNR, attivi naturalmente nella ricerca sui materiali, sui superconduttori e anche sui dispositivi elettronici, e da ricercatori delle università di Princeton e di Hiroshima. Di tutto questo parliamo con Ivana Vobornik, che è ricercatrice dell'Istituto Officina dei Materiali del CNR, che è naturalmente tra gli autori della ricerca. Buonasera Vobornik. Buonasera. Allora, senta, ci descriva intanto un po' come sono fatti, per quel che si può, perché in assenza di immagini è difficile, comunque, questi materiali. Allora, questi materiali di nome impronunciabile, tipo come grafene, sono materiali che si possono esfoliare e quindi sono interessanti perché la loro proprietà bidimensionali possono poi essere sfruttate negli dispositivi elettronici del futuro. Ecco, ci sono alcune proprietà specifiche che sono il motivo per cui ci interessano così tanto, no? Ce n'è una in particolare di queste proprietà. Infatti, questi sono i materiali che hanno una magnetoresistenza titanica. Ecco, allora, diciamo quella gigante, che cos'è, ma soprattutto a che cosa è servita? È una scoperta che ha portato anche un Nobel, quella della magnetoresistenza gigante. Sì, sì. Allora, magnetoresistenza è un fenomeno che si conosce già da 1800, e si sa che la resistenza elettrica dei materiali cambia in funzione dell'applicato campo magnetico. Okay. Tipicamente in un materiale normale, come per esempio ferro, questo cambiamento di resistenza può aumentare al massimo a qualche percento. Nei materiali di magnetoresistenza gigante invece andiamo a un aumento di 100.000% e materiali di questo tipo qua al momento si utilizzano per la lettura dei hard disk, per memorizzare computer. Informazioni per sì. Esempio, no? Esatto, invece nel materiale di cui si occupa la nostra ricerca, questi TMD, che nel vostro specifico caso è composto da? Tungsteno e tellurio, quindi okay. Un ditellurio di tungsteno, okay. La magnetoresistenza è così grande, tipicamente in altri materiali cresce e satura. Nel caso di nostro di tellurio di tungsteno cresce e non satura mai nelle condizioni che si possono riprodurre nei laboratori. Presenti. Quindi un fenomeno ulteriormente accentuato rispetto a questa magnetoresistenza gigante, che è stata preziosissima perché è alla base del funzionamento degli hard disk. Ecco, certo. Quindi è chiaro che ci interessano molto questi materiali. E qui veniamo alla vostra scoperta. Voi avete aggiunto un pezzo di conoscenza su questi materiali, appunto. In che cosa consiste? Chiaro. Allora, noi abbiamo utilizzato la luce di sincrotrone di Elettra per studiare le proprietà elettroniche di tellurio di tungsteno. Ecco, sì, la luce di, adesso ne abbiamo parlato altre volte, diciamo che il sincrotrone consente, diciamo, di fare come delle fotografie di fenomeni però rapidissimi che avvengono nel mondo microscopico. Senza esatto. Poi... Okay. Quindi noi con le nostre misure abbiamo immagine del comportamento di elettroni nel materiale, sì. Che poi con aiuto dei nostri colleghi teorici cerchiamo di spiegare. E quindi quello che abbiamo visto è che proprio la magnetoresistenza titanica del materiale che abbiamo studiato non si può ottenere in un unico strato di materiale. Nel caso di tellurio di tungsteno la magnetoresistenza titanica si ottiene soltanto se abbiamo tre strati di materiale in gioco. Adesso quali saranno i prossimi passi della vostra ricerca, ma soprattutto quali potrebbero essere le applicazioni di questi materiali, se le vedete lontanissime, o è qualcosa che potrebbe cominciare ad avere un utilizzo già nei prossimi anni? Allora, questo materiale naturalmente, come in caso di grafene, bisogna pensare come metterlo in contatto con altri materiali, vedere come cambiano sue proprietà elettroniche una volta quando è messo in contatto con altri materiali. Questo per fare dei dispositivi, lei dice, per fare un dispositivo elettronico non è che basta uno strato di questi materiali, ma bisogna associarlo con altri. Esatto, e quindi a tal punto c'è speranza di poter usufruire di sta magnetoresistenza che titanica. In caso di questo materiale effettivamente è titanica. Quindi comunque si tratterà, diciamo, non è una cosa propriamente di domani, ci vorrà un po' di tempo prima di poter vedere applicazioni concrete, che però potrebbero essere che cosa? Delle memorie molto dense, giusto? Per esempio, o comunque si può sempre sfruttare nella lettura dei hard disk e via avanti. Per avere prestazioni ancora superiori. Va bene, grazie Vobornik. Grazie a lei. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento. A domani.